Mi son fermato. Ho troppa libertà. Non ho mai perduto tempo a scegliere. Dimmi tu come si fa. E stavolta cerco di ubriacarmi un po' di vento per non pensare più a tutta quella forza che mi sentivo, mi sembrava senza libertà. Libertà. Sento l'odore della strada che porta verso casa. Mi fa compagnia. Oddio, ho bisogno di te. Dio, dentro un traffico vuoto io mi son perso per strada. Addio, nel rumore che c'è, oddio, ho sentito il silenzio io, che mi ha fatto tremare. Sento il bisogno di lavarmi e di stendermi al sole. E cambia il vento e mi riporta un po' dell'odore di salsedine e di sabbia che da sempre mi accende un fuoco qui. E le cose piccole assolate torna sempre su. Quando ad allargare l'obiettivo il campo sarà per gabbia o per bisogno, o l'hai capito, ma non ci riesci più. Sento l'odore della strada che porta verso casa. Mi fa compagnia. Addio, ho bisogno di te. Addio, dentro un traffico vuoto io mi son perso per strada. Io ho sentito il silenzio, Dio, che mi ha fatto tremare. Ho sentito un silenzio, Dio, che mi ha fatto tremare.